Tornando in diretta in scena, 8 e 32 minuti di questo venerdì 28 luglio, una delle ultime puntate, anzi penultima puntata stagione 2022-2023 per essere precisi, ci risentiamo lunedì per i saluti. E intanto, Entroterre, la rassegna che passin passino sui 103.1 stiamo seguendo, vedrà una presenza vicina a noi, cioè nel comune di Ozzano dell'Emilia. Poi avremo i dati molto più attinenti per quanto riguarda il luogo, perché anche Entroterre ha una capacità di scelta nel palcoscenico assolutamente originale. Oblivion Summer Show, tra satira e musica, gli Oblivion, i 5 gradi di separazione, pensate un po', fra i Queen e Gianni Morandi. Sarà in scena Lorenzo Scuda, fra gli altri, che è qui in diretta telefonica con noi, al quale do il buongiorno. Buongiorno Lorenzo. Ciao, buongiorno a tutti. Qua va benissimo, guarda, sento anche dei rumori di fondo che sono... Si è spaccata una sedia. Una colonna sonora naturale per la nostra conversazione. Ah, sì, siamo nelle montagne del Piemonte in questo momento. Ah, quindi avete un po' di strada da fare per arrivare a Bologna. Io quando andavo a lavorare verso il torinese dicevo, ma la spostano ogni volta la città di Torino? Perché mi sembrava sempre più lontana, però... Sì, siamo lontanini. Alla fine, infatti. Ci riunisce la passione e questo motivo di incontro. Ci puoi parlare di questo spettacolo, tra l'altro con grande curiosità, 5 gradi di separazione, l'esempio che è stato portato qui tra i Queen e Gianni Morandi, di che si tratta? Li fate ritrovare assieme con che motivi di avvicinamento, Lorenzo? Ma la nostra storia è quella di mescolare assieme robe strampalate, musicalmente parlando e non solo. E quindi questo Oblivion Summer Show è un, come dire, è una festa estiva nella quale snoccioliamo tutta una serie di follie che abbiamo fatto durante la nostra ormai ventennale carriera assieme. E i Queen, mescolati con Gianni Morandi, sono uno dei nostri pezzi più famosi, che nascono da un evento che ci ha battezzato, perché 20 anni fa abbiamo fatto il nostro primo spettacolo a Bologna all'Oratorio dei Filippini, sì. E uscendo da alla sera dopo lo stato andare a mangiare la pizza, siamo andati in via Montegraffa, la pizzeria che c'è in via di Montegraffa, sì. E mentre camminavamo abbiamo incontrato un tipo alto al telefono e mi ha detto, oh, quello sembra Brian May vecchio e grasso. Poi entriamo in pizzeria e c'erano anche Deacon e Taylor vecchi e grassi, cioè c'erano i Queen nel tavolo di fianco a noi, perché in quel momento alloggiavano al Baglioni, che c'era i Pavarotti in frente. E quindi l'inizio della nostra carriera è stata fondata la nostra carriera. Abbiamo cenato di fianco ai Queen nella città di Gianni Morandi. Permetto che loro non raccontano questa cosa nelle loro interviste perché sono un po' timidi, però di fatto abbiamo deciso di dedicare un pezzo a questa cosa, incrociando Bologna, nel caso Morandi, con i Queen. Certo. Brian May and Company, un po' attempati e sovrappeso, dai, siccome io faccio parte di quella, sono più vicino a quella generazione, per cui cerco di difendere. Io ti ho detto un virgolettato. Stato sì. Di quelli informali che sono scappati per la strada, ma chiaramente ma ci mancherebbe. Se stessi facendo un'intervista, direi attempati fuori peso. Un po' attempati, un po' sovrappeso. Questo no, ma lo dico unicamente per vanità personale, per difendere dal passare del tempo le conseguenze naturali. Anzi, meno male che ci sono, perché l'alternativa è ben peggiore, diceva sempre. Sì, è più fresca, ma peggiore. Ma peggiore, esattamente. Allora, appunto. Appuntamento martedì 1 agosto alle 21.30, la rassegna Entroterre a Parco di Villa Maccaferri, Ozzano. Tra l'altro io consiglio, come al solito, io la passione di questi posti, non sempre così sotto i riflettori come meritano. La parte collinare di Ozzano dell'Emilia è molto suggestiva e singolare, affascinante, sembra quasi magica che da un momento all'altro possa uscire un folletto, un gnomo, una fata. È un posto abbastanza particolare, della famiglia delle armi, scontri, guelfi, ghibellini, ma questa è un'altra storia. Qui stiamo parlando di musica in maniera quanto mai particolare e di unione paragone tra gli aspetti che casualmente, ma come ben sai, il caso non esiste, Lorenzo, perché poi abbiamo la realtà Oblivion Summer Show e chi ci sarà con te sul palcoscenico? Gli altri quattro disgraziati con cui condivido questo percorso, ormai ci odiamo, fra cui ci saranno Graziana Berciani, Davide Calabrese, Fabio Vagnarelli e Francesca Folloni, che, con la quale condivido tra l'altro anche il talamo nuziale, quindi un doppio matrimonio. Bene, quindi coppia sul palcoscenico e coppia nella vita. Oltretutto, aggiungo allora tra le curiosità, musica e narrazione, possiamo definirlo così come spettacolo, coi fili conduttori dei protagonisti che abbiamo citato? Ma in realtà sì, troviamo sempre dei motivi strampalati per collegare cose che fra di loro non hanno un senso. E è una bella festa con gli spettatori, con chi ci ama, e una cosa la rende particolare e unica, e quindi per questo vale la pena venire a Lozzano, è gratis, questo non dimentichiamo. Ecco, questo è un aspetto che, bravo, hai fatto bene a sottolineare, ciò non toglie che siete stati definiti uno Spotify vivente, anche se io non sono iscritto, così si può dire, alla piattaforma di Spotify, preferisco magari definirvi un jukebox vivente, visto l'età che salta fuori, attempate, tutto questo. E vi riconoscete in questa definizione, Lorenzo? Beh, sì, nel senso che i nostri spettacoli sono veramente molto frenetici, i nostri numeri sono cortissimi e si attaccano l'uno con quell'altro. Quindi l'idea è quella di cercare di tenere un ritmo veramente sconnesso come quello che è la proiezione dei conti. Oh, mi sei scappato, cerco di riprenderti. Ci sei, mi senti? Pronto. Ecco, sì, adesso mi sei tornato molto bene, ok. No, è una fruizione sconnessa come quella che c'è quando uno guarda un reel. Quindi sono pezzi brevissimi che saltano, che non c'entrano niente uno con l'altro, e questo rende un po' contemporaneo il linguaggio, anche se parliamo di Tito Schipa, ecco. Sì, certo. Quindi dal comune di Ozzano dell'Emilia, questo motivo di incontro, puoi restare un pochettino in diretta che metto un po' di musica. Metto i Toto con Giorgi e Porgi, poi rientriamo e continuiamo questa chiacchierata per presentare la serata della rassegna Entroterre, che sarà martedì 1 agosto. A tra poco! I'm just a youngin'. Oh, grazie Darko, un saluto a voi. Ieri presenti, infatti io pensavo fosse un atleta, un cestista, per non averlo riconosciuto. Darko è molto alto, certo che detto da me lascia un po' così, però vi confermo che sarebbe un'ottima ala pivot, agile, presente. Grazie per esserci, grazie Darko per l'ascolto e per l'incontro di ieri sera. Un saluto anche a Maria, un'altra Maria che aggiungiamo all'ascolto del Breakfast Club. Del resto il nome dal latino antico significa dea dai mille nomi, per cui certo abbiamo tante Maria. Grazie Darko, grazie Maria. Avremo modo ovviamente di risentirci e di rivederci. Intanto portiamo a conclusione la presentazione della serata di martedì 1 agosto a Ozzano, Oblivion Summer Show. Con noi Lorenzo Scuda, buongiorno e ben ritrovato. Lorenzo, sei andato via o sei rimasto? Intanto... Sono sempre qua da un balcone di un paesino del Piemonte che urlo nel paesino silenzioso. Io ho ridato il buongiorno, sai mai, visto che la linea va e viene, ho cercato di mantenere una continuità anche eticamente nella nostra conversazione. Ma tra Gianni Morandi, che ha queste mani enormi, no? Sai che Gianni Morandi ha questa caratteristica fisica, mani enormi, e i Queen, indipendentemente dalla morfologia fisica, quali dualismi avete trovato oltre che l'incontro particolare a Bologna? Non so, nella musica, nella particolarità, non so come mai, oltre, o è stato solo il caso che vi ha portato a questo incontro? La mamma che come sempre è al centro della poetica di tutti gli artisti, per freudiane ragioni. Quando ascoltavamo Bohemian Rhapsody ci è venuto molto divertente farti mandare dalla mamma il latte. E da lì è nato tutto quanto, insomma. Certo. La mamma è sempre una certezza. E ha dato ispirazione anche a queste ed altre realtà, per cui avremo modo di approfondirne questi incontri con Entroterre. Grazie alla serata che, ribadisco, è martedì 1 agosto. Ci puoi parlare? Avete in repertorio anche altre figure da unire? Così, scusa se ti chiedo di svelare. Ok, dai, me ne cito qualcuna. Ma abbiamo dei pezzi da Guinness dei primati, per esempio uno dei nostri pezzi più folli è la storia di Sanremo attraverso i cantanti vincitori, le canzoni vincitrici. Li cantiamo tutti in ordine cronologico e in 5 minuti. 6 minuti ormai è diventato, era 5 all'inizio, ma dopo con tutte le ultime siamo arrivati a 6. Praticamente ogni canzone dura, non so, 7-8 secondi e sono mescolate in un unico brano, che è una cavalcata folle, che alla fine ci vuole il defibrillatore, ma è molto spettacolare. E anche la stessa cosa l'abbiamo fatta ancora più folle con la storia del rock, in cui in 6 minuti partiamo da Rock Around the Clock, gli anni 50, sì, e percorriamo tutti i più grandi riff di chitarra, i più grandi brani famosi, fino ad arrivare ai Muse, ai Coldplay, ai Rose, agli anni 2000, facendolo a cappella, utilizzando le voci per imitare gli strumenti musicali. E quindi sono tutti proprio delle imprese, delle spacconate musicali vere e proprie che facciamo così, senza orrore di noi stessi. Certo, e anche grande impegno fisico, mi sembra di capire. Sì, beh, mesi di prove per fare 6 minuti, questo è certo. Ecco, esatto, siete dei 100 metristi dello spettacolo, in fondo. Sì. 6 secondi per dare il meglio in un'interpretazione. E questo, come vi ho detto, per la rassegna Entroterre Oblivion Summer Show, in questo caso l'incontro tra Queen e Gianni Morandi a Ozzano. Io ti ringrazio tantissimo e ti auguro una buona giornata, ti auguro un buon weekend e ti aspettiamo qua vicino a Bologna. Grazie a voi. Ciao, ci vediamo martedì. Grazie. Ciao. A martedì, ciao. O paneguinho na estrada rupa pra lá e pra cá. Vixe que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. O paneguinho na estrada rupa pra lá e pra cá. Vixe que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. Começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce neguinho e me abraça, cresce e me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Mas muito te posso ensinar. A poeira posso ensinar. Posso tirar. Alegria posso emprestar. Mas liberdade só posso esperar. Paneguinho na estrada, opa pra lá e pra cá. Vixe que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. O paneguinho na estrada, opa pra lá e pra cá. Vixe que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. Começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce neguinho e me abraça, cresce me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Mas muito te posso ensinar. Posso ensinar. Posso tirar. Posso emprestar. Mas liberdade só posso esperar. Edu Lobo, o paneghigno, intanto che portiamo a conclusione l'ultima puntata stagione 2022-2023 della rubrica In Scena, per i ringraziamenti alle collaborazioni di questa stagione che è stata veramente molto molto ricca, ricordate a volte anche 3 o 4, diventato ormai un rotocalco dedicato al teatro. Lunedì, grazie a direttori artistici, direttrici, attrici, attori che abbiamo avuto ai microfoni, nelle dirette telefoniche, e sto raccogliendo un po' tutte le imprecazioni che mi sono arrivate anche per la richiesta nell'orario dell'intervista che andava dalle 7:45, quindi potete immaginare, insomma, ecco, in questo caso mi rendo conto, però come la rubrica In Mostra ho voluto, per motivi di narrazione radiofonica, portarla registrata in scena quando posso, ovviamente la diretta secondo me ha un valore aggiunto, quindi un grazie. Quante colazioni che devo pagare, mamma mia. Se è il caso contribuirò a queste colazioni con grande piacere, perché In Scena, il rotocalco sul teatro, è stato veramente onnipresente. Penso appunto di aver portato e coperto tra Bologna e provincia non solo probabilmente la totalità degli appuntamenti a teatro, e di questo ovviamente ne sono e ne siamo molto molto contenti. Tutto ciò grazie a voi, grazie anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori dei 103.1, anche ai quiz che vi hanno portato a teatro. Spero per la prossima stagione di avere ancora più possibilità di portare a teatro le super mattiniere e i super mattinieri dei 103.1. Beh, siamo ai saluti, che dite voi? giusta quando è meritata, ovviamente. Allora, abbiamo parlato di Mendola, che nella Val Bidente, dai, chiudiamo così. Allora, è weekend, nella Val Bidente, Mendola, voi salite e trovate Santa Sofia. C'è una frazione di Santa Sofia che ha un nome un po' particolare, si chiama Spinello di Santa Sofia, e trovate la trattoria La Nocina. Quindi, anche qui, vi ho dato il consiglio, pausa pranzo. Marco Villa Maccaferri o Zano Emilia, beh, molto vicino a questo territorio, la famiglia delle armi, città murarie, oramai esistono solo alcuni bastioni, da un bastione che è la torre da San Pietro di Ozzano, vabbè, magari la conoscete tutti, qui siamo a dei tutti tempi dell'enogastronomia, non sto neanche a citare il nome, qui veramente, a parte che il posto è bellissimo, racchiuse tre epoche diverse in questo spazio, in questa micro frazione. Abbiamo alcune case con pianta originale di epoca romana, questa torre medievale, la pieve che ci porta a fine 700, inizio 800, una trattoria che sembra ancora particolarmente legata alle epoche in maniera molto attinente a quello che è un'ottima degustazione. Degustazione non mi piace, quella che è un'ottima cena. Non facciamo mancare nulla, lì vicino anche un piccolo cimitero sconsacrato, e vederlo al tramonto, come ho detto, micro sensazioni che sono estremamente intense. Io vi auguro un weekend fantastico, un buonissimo weekend, vi aspetto lunedì, che sarà l'ultima puntata del Breakfast Club per questa stagione. Ieri per motivi tecnici non siamo andati in frequenza, per cui ho deciso i saluti, magari sfogliando qualche notizia dei magazine, ufficialmente li porto lunedì 31 luglio. Nuovamente un buon weekend, un caloroso abbraccio dal vostro William Piana, grazie per l'attenzione, un buon ascolto sulle nostre frequenze, ciao a tutte, ciao a tutti, a lunedì!